tuoi pensieri restano qui. Come pensi di amare se ormai non trovi amore dentro di te? Con tante navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Il mondo, sai, non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te. Passato non passerà mai. Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città. La gente si annoia ogni sera come da noi. Dove credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te? Con tante navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Il mondo, sai, non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te. Se il tempo che è passato non passerà mai. Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città. La gente si annoia ogni sera come da noi. Credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te.